Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Il califfato in Africa, gli interessi europei, i rischi per l'Occidente. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Le colonel major à la retraite est désormais chargé de conduire la transition recommandée par les récentes assises du Mali. There's JNIM, which is linked with Al-Qaeda, and its rival ISGS. Both are active in Mali, Burkina Faso and Niger. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Torna Nessun Luogo Lontano dopo l'ampia parentesi elettorale. Anche quest'oggi torneremo a allungare gli occhi al di fuori dei confini italiani. Con me lo faranno Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia ritroviamo Valeria Bernardi. Vi ricordo anche i numeri, il 349-238-6666 per sms, whatsapp, per domande e commenti sul tema che vi proponiamo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Potete commentare, porre domande e alimentare il dibattito anche attraverso i social, Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Che cosa ci ha insegnato la benefica esperienza dello Stato Islamico in Medio Oriente, tra Iraq e Siria? Quali elementi ci ha consegnato che possiamo gelosamente custodire per evitare di vivere un'esperienza simile? Beh, sostanzialmente gli ingredienti della costruzione di un califfato. Oggi proveremo a capire se quegli ingredienti ci sono, e tutti, ma forse solo alcuni invece, nella ampissima zona del Sahel di cui spesso abbiamo parlato, e cercheremo di tratteggiare soprattutto i rischi anche per l'Europa. Rischio califfato, quindi, questo è il titolo della puntata di Nessun Luogo è Lontano e intanto noi andiamo a sfogliare i nostri dossier. Il primo ci porta in Libano e sembra tragicomico dare queste notizie perché un'altra esplosione, questa volta nel sud del paese, siamo nella regione di Ain Kana, molto vicino alla valle della Bekaa. Il bilancio sarebbe di almeno 5 morti e vari feriti. Esplosione di cosa, vi starete chiedendo? Allora, alcuni dicono una stazione di benzina, altri, adesso le fonti sembrano più collocarsi su questa scia, un deposito di armi di Hezbollah. Sapete, Hezbollah è a tutti gli effetti un partito politico con una sua ala militare, quella che tante grane, tante gatte da pelare al vicino Israele. Ripeto, fonti per il momento si stanno allineando sull'ipotesi di un deposito di armi che sarebbe esploso, e alcuni dicono per un errore tecnico non meglio precisato. Certo che dopo l'esplosione al porto e il successivo incendio sembra che una volta al mese una esplosione, una tragedia vada a funestare il fragilissimo paese medio orientale. Poi è in corso l'Assemblea Generale dell'ONU e la scorsa settimana abbiamo dedicato proprio una puntata alle Nazioni Unite che compiono 75 anni. Ci chiedevamo se portassero bene o male questi tanti lustri appunto sulle spalle. Peraltro ha parlato anche il presidente statunitense Donald Trump, ha bacchettato, sta pestando duro sulla Cina, ma appena usciranno le agenzie ve ne daremo naturalmente conto. Fatemi prima andare però in Bielorussia, o meglio andare a indagare quelli che sono i rapporti tra la Bielorussia e l'Unione Europea, perché la principale leader dell'opposizione bielorussa, Svetlana Tsikhanouskaya, è andata ieri a Bruxelles. Lo scopo era di convincere l'Unione Europea ad applicare sanzioni contro Minsk, dare insomma una spallata e un segnale politico affinché Alexander Lukashenko prendesse secondo il punto di vista dell'opposizione le adeguate mosse rispetto a che cosa? A oltre 40 giorni di proteste popolari pacifiche alle quali Lukashenko ha risposto con una durissima repressione. L'opposizione, lo ricordiamo, non riconosce valide le elezioni dello scorso 9 agosto, che sono venate di profondi sospetti e di possibili brogli. Il problema è che l'Unione Europea, che a parole sembrava manifestare un'unanimità e sdegno unanime verso la feroce repressione di Lukashenko, non è riuscita a mettersi d'accordo per applicare le sanzioni. Perché? Beh, ci si è messa di mezzo Cipro, che ha espresso un voto negativo dichiarando che conterrà continuerà a mantenere la posizione del no, della negatività sulle sanzioni, finché la stessa Unione Europea non si impegnerà a imporre sanzioni anche contro la Turchia e la sua aggressiva politica energetica. Fra l'altro, vi segnalo anche, e questa è una notizia dell'ANSA, che Turchia e Grecia sono pronte a colloqui esplorativi sulla crisi del Mediterraneo orientale. Lo ha annunciato la presidenza di Ankara al termine di una videoconferenza di oggi che è avvenuta tra Recep Tayyip Erdogan e la cancelliera tedesca Angela Merkel, presente anche virtualmente il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. A proposito di quella zona di mondo dell'importante tratto del Mediterraneo, un'altra agenzia batte la notizia secondo la quale i presidenti di Turchia e Francia, quindi ancora una volta Erdogan, ma in compagnia di Emmanuel Macron, avranno questa sera, tra poche ore, una conversazione telefonica dopo i durissimi scontri, lo sapete, che sono avvenuti non soltanto tra Grecia e Turchia, ma anche tra Francia e Turchia. Il colloquio, secondo le fonti della presidenza di Ankara, avverrà alle 20 ore turche, quindi le 19 in Italia, il tutto a due giorni dal Consiglio europeo che discuterà di questa crisi e di eventuali, ancora una volta, sanzioni alla Turchia. Intanto arrivano i primi messaggi al 349-238-6666, tra pochissimo naturalmente ve ne darò conto, non prima di avervi raccontato che in Afghanistan sono partiti, lo sapete, i colloqui di pace intra-afghani, quindi tra le varie fazioni dei talebani e il governo di Kabul, ma sullo sfondo continuano gli scontri, almeno 57 membri tra esercito e forze di polizia e 80 talebani dall'altra parte sono rimasti uccisi in una serie di scontri che sono avvenuti tra domenica e lunedì in varie zone del paese. In più il Ministero dell'Interno e in particolare il portavoce Tariq Aryan ha riferito che questi attacchi e questi feroci scontri hanno portato anche alla morte di parecchi civili. Nelle ultime due settimane 98 i civili che hanno perso la vita e 230 i feriti. È il bilancio più sanguinoso da quando il governo di Kabul ha iniziato questi lunghi colloqui di pace, lunghi lo aggiungiamo noi, ma sapete che uno degli scogli, dei nodi fondamentali da sciogliere è il numero e la caratura dei prigionieri, questa sorta di scambio tra talebani incarcerati e forze di sicurezza. Questo scambio, dicevo, di prigionieri che doveva essere il preludio a una nuova stagione per il paese afghano. Il cessate il fuoco per il momento rimane solamente sulla carta e staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime ore a Doha. Intanto citavamo il presidente statunitense Donald Trump, che ha da pochissimo parlato nell'Assemblea Generale dell'ONU che sta avvenendo proprio in questi minuti mentre vi sto parlando. Adesso sta parlando il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente Trump, che si trova un'altra nomina da fare, un altro piccolo problema da superare, perché nelle scorsi giorni è venuta a mancare Ruth Bader Ginsburg, che era il giudice della Corte Suprema. Trump aveva dichiarato che il successore sarà una donna e la nomina verrà ufficializzata. A questo punto ha twittato da pochissimo entro sabato la nomina per la Corte Suprema per sostituire appunto la Ginsburg. Tutte le ipotesi sul nome sembrano convergere su Amy Coney Barrett, che è appunto una delle candidate in pole position. È un giudice cattolica, antiabortista, sostanzialmente l'antiritratto della Ginsburg, che sembra un po' piacere sicuramente agli ambienti più conservatori e filo repubblicani. Il timore naturalmente a questo punto è la strumentalizzazione politica anche di questa nomina è dietro l'angolo. Il timore maggiore dei democratici è che la poltrona vuota della Ginsburg possa galvanizzare proprio la campagna di Trump, spingendo soprattutto quella massa di elettori, gli evangelici, super conservatori, che potrebbero votarlo nella speranza di trovare questo riflesso conservatore proprio anche nell'ambito della Corte Suprema. E intanto arrivano un po' di messaggi al 349-238-6666 sui temi che abbiamo in maniera molto sommaria toccato. Ve lo ricordo, i nostri dossier internazionali sono fatti, notizie, spunti che arrivano dai quattro angoli del globo e che diventeranno prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. Shu scrive: la Merkel dovrebbe ricattare Erdogan minacciando di mandare in Turchia 2,5 milioni di turchi che vivono in Germania. Piuttosto Tranchant, Shu sembra dimenticare quella che è l'etichetta, il lessico, ma anche la prassi di diplomatica. Detto ciò, è chiaro che la Turchia sta mettendo in scacco l'intera Unione Europea e non soltanto la Grecia, e in misura minore anche l'Italia. Poi qualcuno allarga il discorso sulle sanzioni, si parla per esempio della Cina, così un ascoltatore che cerca di mettere il grand'angolo, qualcun altro che scrive che dire, Cipro non ha torto, anzi, e qualcun altro dicevo invece che pone l'accento sulla estrema divisibilità dell'Unione Europea, basta un dossier per spezzare la compagine dei 27 e far saltare quella che dovrebbe essere una politica estera comune dell'Unione Europea. Questi nostri, sono i nostri dossier internazionali. Adesso andiamo al cuore della puntata di oggi. Intanto Antonio Tala mi segnala le esatte parole del presidente statunitense Donald Trump nel suo videomessaggio all'Assemblea Generale dell'ONU. La Cina ha infettato il mondo, così ha attaccato duramente Trump e ha aperto il suo intervento davanti all'Assemblea Generale. Dobbiamo mettere di fronte le sue responsabilità la nazione che ha scatenato l'epidemia sul mondo. Gli Stati Uniti sono dei costruttori di pace, ma la pace attraverso la forza. Produrremo il vaccino, sconfiggeremo il vaccino, sconfiggeremo la pandemia, distribuiremo il vaccino e porremo fine alle polemiche. Queste le parole di Trump, piuttosto tranchant, piuttosto sicure, e che hanno un nemico chiaro e dichiarato, che è la Cina di Xi Jinping. Torniamo però, dicevo, al cuore della puntata di quest'oggi. Come si costruisce un califfato? Si può fare in Africa? I segnali ci sono e tanti. Nelle scorse puntate, in particolare nella finale della scorsa stagione di Nessun Luogo Lontano, vi abbiamo spesso raccontato della crisi nel Sahel, dal Burkina Faso al Chad, al Niger, passando per il Mali. Ebbene, la recentissima esperienza dalla fondazione, benefica fondazione dello Stato Islamico tra Siria e Iraq, ci ha insegnato delle cose, ci ha consegnato un terribile bagaglio di esperienza che forse dovremmo poter mettere in pratica. Ci ha svelato in particolare quelli che sono gli ingredienti attraverso i quali e con i quali gli estremisti islamici possono provare a rifondare un califfato, e non sottovalutare questi elementi è molto molto importante. Innanzitutto ci vuole un territorio, questo direte voi è un'ovvietà, ma come deve essere questo territorio? Innanzitutto deve essere ricco di risorse, ma deve essere senza stati, perdonate forse la banalità. Senza stati intendo deve avere stati fragili, strutture statuali e governative che non sono degne di questo nome, e non deve avere eserciti forti, deve avere eserciti magari raffazzonati, poco addestrati, con pochi soldi. Un territorio con una popolazione povera, un territorio dove possa essere facile reclutare nuovi combattenti, nuovi adepti, e dove possa essere facile conquistare il favore della popolazione, magari con piccole elargizioni. Un territorio poi dove si possa tuonare contro il nemico, magari grazie alla presenza di ONG, grazie alla presenza di militari stranieri, insomma un territorio dove gli occidentali possono essere in generale un target specifico, e magari un territorio dove si possono fondare scuole coraniche o moschee che diffondono messaggi estremisti. Ecco, molti di questi fattori li ritroviamo in tanti stati del Sahel, e allora proviamo a sorvolarli, lo facciamo come al solito in 90 secondi da nord a sud, con una piccola avvertenza però: sono luoghi lontani, ma forse non così tanto. Niger, cerniera tra le due Afriche, è un partner essenziale di Parigi per la massiccia presenza di uranio. Osservato speciale anche dell'Italia e dell'Unione Europea per la gestione dei flussi migratori, ospita la missione militare europea Takuba, impegnata contro diverse sigle jihadiste. Burkina Faso, retto da un governo molto fragile, con la maggior parte della popolazione sotto la soglia di povertà, fa molta gola ai diversi gruppi jihadisti per la presenza di numerose miniere artigianali di oro del valore stimato di diversi milioni di euro. Mali, chiave di volta della regione, oltre a forti interessi da parte della compagnia petrolifera Total, ospita il quartier generale della missione a guida francese Barkhane, è impegnata principalmente contro al-Nusrat al-Islam, gruppo legato ad Al-Qaeda nel Maghreb islamico. L'intera regione, grazie alla porosità dei suoi confini, è poi caratterizzata da traffici di esseri umani, stupefacenti e armi che sfruttano le collaudate rotte attraverso il deserto. Ma gli interessi di jihadisti e attori esterni non si concentrano solo nel Sahel, si estendono infatti anche all'Africa subsahariana. Repubblica Democratica del Congo, ricchissimo di minerali e materie prime, ha visto il proliferare di gruppi jihadisti che lottano per il controllo delle risorse. Protagonista nel nord del paese è lo Stato Islamico della provincia dell'Africa centrale. Mozambico. Avamposto del jihadismo australe, la regione settentrionale di Capo Delgado è ostaggio di gruppi armati che hanno intensificato i loro attacchi dopo la scoperta di giacimenti di gas naturale, ora gestiti dalla Total. Il gruppo, chiamato Al-Shabaab, non ha legami con l'omonima organizzazione somala, mentre sono da chiarire i rapporti con lo Stato Islamico. Questo è il nostro consueto viaggio in 90 secondi per iniziare a focalizzare, magari a digitare su Google Maps la zona di mondo che proviamo a raccontarvi in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. E naturalmente ci soccorre, visto che è zona sua, per così dire, Camillo Caso, l'analista, ricercatore di ISPI, esperto di Sahel. Camillo, buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo è Lontano. Ciao Gianpaolo, buongiorno a tutti. Allora, intanto al 349-238-6666 con una certa lucidità un ascoltatore o ascoltatrice dice praticamente gli stessi ingredienti per fondare la mafia. Beh, c'è un aspetto di penetrazione del territorio e di ricerca del favore di parte della popolazione che probabilmente richiama alcune organizzazioni criminali nostrane, soprattutto direi io qualche decennio fa. Camillo Casola, la prima domanda è questa, intanto se sei d'accordo con la nostra analisi iniziale, ci sono tutti gli ingredienti, o per meglio dire, ci sono tutte le condizioni necessarie e sufficienti a che si abbia un nuovo califfato lì nel cuore dell'Africa? Diciamo che ci sono una serie di fattori e di elementi che potrebbero fare da base per la costituzione di protostati, diciamo così, islamici. Ovviamente è da considerare che ogni contesto è peculiare, ogni ambito ha le sue specificità, per cui non necessariamente parliamo di potenziali entità assimilabili in tutto e per tutto a quello che è stato lo Stato Islamico in Siria e in Iraq. Ovviamente le condizioni, come dicevi, come giustamente si specificava nel servizio, ci sono, a partire da condizioni di governance altamente disfunzionale, cioè quella che si definisce la bad governance, no? Spesso sì. non parliamo di Stato assente, ma Stato che non funziona, Stato che funziona male, che non viene incontro come dovrebbe ai bisogni, alle esigenze delle popolazioni locali, ad esempio, che è percepito come distante, no? Parliamo di stati dove gli eserciti spesso più che deboli sono, mancano del necessario professionalismo, diciamo così, e infatti soprattutto in queste zone si è accertato ormai che il driver principale di reclutamento per questi gruppi jihadisti, più che la povertà, è rappresentato proprio dalle violenze degli eserciti, ad esempio dagli abusi degli eserciti delle forze armate. Ne abbiamo prova recente anche dei rapporti di Amnesty International, che risalgono soltanto a qualche mese fa e che hanno riguardato il Niger, il Mali, eccetera. Sì, mi viene in mente, perdonami se ti interrompo Camillo, anche la nascita di Boko Haram, che ha tratto linfa e vigore proprio da un esercito nigeriano che si macchiava di varie nefandezze, quindi era facile poi per le prediche, no, di Yusuf andare ad incendiare i cuori. Con Camillo Casola, che è analista... Lo stesso Yusuf che era stato eliminato. Esattamente, con un'esecuzione extragiudiziale giravano foto e video che erano francamente da far venire i brividi, se quello era l'esercito che doveva garantire i pilastri dello Stato nigeriano. La voce che ascoltate è quella di Camillo Casola, analista dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, esperto di Sahel. Ti faccio sentire la voce di un collega, è un francese, è il direttore del progetto Sahel per International Crisis Group, si chiama Jean-Hervé Jezekel. A lui abbiamo chiesto un primo commento, in particolare sul Niger. Proviamo a fare questo viaggio più o meno da nord a sud. La settimana scorsa nell'importante paese sei cooperanti e due guide sono stati uccisi in un attentato poi rivendicato dallo Stato Islamico, in una zona che ormai le autorità di Niamey definivano praticamente sicure. C'è anche una massiccia presenza di militari, anche italiani. Stiamo assistendo a un ulteriore peggioramento della minaccia terroristica in quella zona. Sentite cosa ne pensa Jean-Hervé Jezekel, che è capo del Sahel per International Crisis Group. Papa necessariamente da muore il tema. No, non necessariamente. Se consideriamo il numero di azioni condotte dai gruppi jihadisti, gli attacchi armati negli ultimi 2 o 3 mesi sono diminuiti. Si tratta di una tendenza che generalmente osserviamo nel Sahel centrale in questi mesi dell'anno e che viene determinata dalla stagione delle piogge. I movimenti diventano più complicati e ogni anno si assiste a una riduzione degli attacchi. Tuttavia, quest'anno abbiamo osservato molti scontri e molti conflitti che si sono svolti tra gli stessi gruppi jihadisti, in particolare, ovviamente, tra quelli che sono legati al ramo Al-Qaeda e quelli legati allo Stato Islamico. Tutti questi fattori spiegano un po' la percezione della frequenza degli attacchi. È evidente che i terroristi restano attivi e presenti. E un attentato come quello di Kure dimostra una volta di più la pericolosità di quelle zone. Ma diciamo che l'evoluzione recente non tende tanto verso una recrudescenza degli attacchi, quanto in generale instabilità, che non ci permette affatto di affermare che il fenomeno sia sul punto di essere sconfitto. Semplicemente stanno combattendo tra loro. E questo è un altro tassello all'analisi che ci arriva dalla voce di Jean-Hervé Jezekel, International Crisis Group, ma anche gli ascoltatori ci mettono dell'oro e lo fanno virtuosamente. Qualcuno scrive: ci sono due Al-Shabaab, come se la zona non fosse abbastanza incasinata, scrive un ascoltatore. Allora, l'Al-Shabaab mozambicano, secondo gli analisti, non ha nulla a che vedere con gli Al-Shabaab somali, quella formazione estremista nata dalle ceneri delle corti islamiche, era ormai il 2006, che ha messo per anni sotto scacco il governo di Mogadiscio, mentre sembrano più probabili, altamente preoccupanti o comunque preoccupanti invece i collegamenti con lo Stato Islamico. Tra pochissimo vi farò sentire ancora la voce di Camillo Casola, analista di ISPI, non prima di essere andati a sentire come stanno andando le borse in questo momento. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento: nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Mentre Valeria Bernardi ci ricorda dove stiamo viaggiando in questa puntata di Nessun Luogo Lontano con le note dei Tinari Wen, band Tuareg, siamo nel nord-est del Mali. E stiamo cercando anche allo stesso tempo di mettere il grandangolo, allargare un po' il punto di vista sull'intera regione. Lo stiamo facendo con Camillo Casola di ISPI, con il direttore Jezekiel del progetto Sahel di International Crisis Group, e anche con i vostri messaggi che arrivano al 349-238-6666. Scrive un ascoltatore: quanto sono reali i confini nazionali in quella zona, quanto invece sono stati tracciati arbitrariamente, stile Medio Oriente. Un altro ascoltatore scrive: più ascolto la trasmissione, più sento i racconti di quell'area, più mi convinco che bisognerebbe andare e fare un'invasione e bombardare tutto. Qualcun altro, in maniera forse più riflessiva, scrive: il problema non è dove possa sorgere un califfato, ma come prevenire la creazione del suo habitat, come si tengono in piedi collage etnici retti da cleptocrazie personalistiche o claniche e con una demografia insostenibile per un territorio già difficile. Queste sono alcune delle questioni sul campo. Ne aggiungo un'altra, però, e lo faccio per Camillo Casola, che in parte si lega al discorso militare cui faceva riferimento l'ascoltatore di prima. Dopo la morte di Drugdell sono emersi i nuovi leader, ma quello che è certo è che c'è una frattura tra le milizie, i vari gruppi che si ricollegano ad Al-Qaeda, e quelli invece che hanno giurato fedeltà allo Stato Islamico. Questa frizione, questa rivalità, che in parte è anche ideologica, anche su come portare avanti il jihad, può essere un vantaggio per i tanti militari, così rispondiamo anche all'ascoltatore, all'operazione Barkhane su tutte, che sono già presenti in loco e che aiutano i militari locali in questa guerra. Detto in altri termini, che Al-Qaeda e ISIS si facciano la guerra è un vantaggio per noi? In parte sicuramente sì, perché di fatto la circostanza per la quale ci sono due fronti di jihad contrapposti, da un lato Al-Qaeda nel Maghreb islamico e più in esteso il gruppo di sostegno all'Islam e musulmani di Adak Ali, e dall'altro lo Stato islamico nel grande Sahara, è sicuramente un vantaggio, perché impedisce che ci sia uno sforzo comune, congiunto. D'altra parte è interessante sottolineare anche che per un certo periodo di tempo si è parlato del Sahel come di un'eccezione, si è parlato dell'eccezione saheliana proprio perché questi due network che altrove nel mondo sono contrapposti, in Sahel hanno convissuto, secondo alcuni rapporti di ONU, persino collaborato in alcune azioni, comunque non si sono fatti la guerra, diciamo così. Questa circostanza è una più o meno recente, è una tendenza che risale a un anno e mezzo fa più o meno, ed è sicuramente un fattore che agevola le operazioni di controterrorismo, ma d'altro canto è comunque c'è da considerare le ripercussioni devastanti sulle popolazioni locali anche di questo genere di conflitti e di scontri, certo. Sia ripercussioni dirette in termini di conseguenze dirette di questi scontri, sia indirette, parliamo ad esempio dell'accessibilità alle zone di conflitto per gli operatori umanitari, che in queste circostanze è preclusa, e tutta una serie di altre circostanze indirette che, diciamo, devono essere tenute in considerazione quando si guarda il quadro completo e complessivo e si considerano i pro e i contro di una situazione di questo genere. Sì. Camillo Casola ha ben sottolineato quelle che sono anche le ricadute. Noi non volevamo essere troppo asettici nell'elencare gli ingredienti fondamentali per avere un califfato islamico: le risorse, i minerali preziosi, i confini molto molto porosi. Ci sono anche un po' di domande sul tema da parte degli ascoltatori, però è chiaro, e qua leggo un comunicato stampa del World Food Program, l'agenzia degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite, perdonatemi, che si occupa proprio dei programmi alimentari nel mondo e dell'insicurezza alimentare e non solo, rende noto che dopo gli scontri a Cabo Delgado 300.000 persone sono fuggite dalle proprie case, e World Food Program esprime tutta la preoccupazione e va anche a quantificare quello che è il bisogno. Pensate, sono 4.7 milioni di dollari al mese per assistere gli sfollati, sono questi 300.000. Questo ci dà anche le dimensioni finanziarie e economiche di quelle che sono crisi, e qua rispondo ad alcuni ascoltatori che sembrano lontani, ma attenzione, ricordiamoci che quando c'è un jihad, quando ci sono milizie ormai così strutturate, e queste milizie operano magari in paesi che sono anche facilmente collegabili con l'Europa, il rischio terrorismo all'allerta non può assolutamente abbassarsi. Lo Stato Islamico ci ha insegnato, così come anche la guerra in Afghanistan, che ci sono militanti che sono pronti a farsi le ossa in vari teatri per poi magari, e naturalmente ci auguriamo di no, andare a riversare le loro abilità tecniche anche nei quadri, nei teatri europei. Siamo con Camillo Casola, ma adesso vi propongo un altro viaggio, perché alcuni ascoltatori evocano la soluzione militare come quella definitiva. In realtà c'è già, è in loco, è soprattutto a trazione francese, si chiama Operazione Barkhane, e solo pochi mesi fa è stato aumentato il contingente proprio per cercare di dare nuovo impulso in una guerra che è francamente impari, nel senso che i tanti gruppi si muovono con tecniche di guerriglia che sono molto spesso difficilmente contrastabili in territori che, come immaginate, conoscono molto molto bene. Parliamo dell'operazione Barkhane. L'operazione Barkhane inizia nell'agosto 2014, innestandosi sulle precedenti operazioni Serval ed Epervier, con l'obiettivo di impedire la ricostituzione di un santuario jihadista nell'area del Sahel, cercando di privare i gruppi armati del supporto logistico dei network regionali. Coinvolge i paesi del cosiddetto G5, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger e Chad, in un territorio prevalentemente desertico con un'estensione di 5 milioni di chilometri quadrati, pari a circa 10 volte il territorio francese. L'operazione guidata dall'Eliseo ad oggi conta 5.100 soldati, 3 droni, 7 aerei da caccia, 22 elicotteri, 10 velivoli aerei da ricognizione strategica e trasporto, 260 mezzi corazzati pesanti, 360 veicoli da trasporto e 210 veicoli corazzati leggeri. Il dispiegamento maggiore e la guida delle attività militari sono in mano a Parigi, ma sul territorio sono presenti anche contingenti minori di Estonia, Germania, Stati Uniti, Spagna, Regno Unito, Danimarca e Italia. Dall'inizio delle operazioni, 13.000 soldati dei rispettivi 5 paesi sono stati addestrati dalle forze francesi. L'impegno militare nell'area costa a Parigi 700 milioni di euro l'anno. Sul fronte jihadista non si hanno stime esatte, ma si è ipotizzato che il totale dei guerriglieri possa ammontare fino a 3.000 uomini. Nel solo 2019 sono state condotte più di 105 missioni, concentrate prevalentemente nelle regioni transfrontaliere di Liptako e Gurma, tra Mali, Niger e Burkina Faso. Dall'inizio del 2020 l'esercito francese ha eliminato un centinaio di miliziani, di quelli che vengono generalmente definiti gruppi armati terroristi, GAT. Numeri che si aggiungono ad un bilancio che si avvicina a 700 uomini tra vittime e prigionieri. La Francia ha perso sul campo di battaglia 45 soldati, mentre assai più ingenti, ma difficili da calcolare, sono le perdite subite tra le fila dei soldati dei 5 paesi coinvolti, soprattutto maliani e nigerini, a seguito di diversi attacchi alle basi militari. Nonostante il continuo e sempre maggiore impegno militare di Parigi, confermato da Macron durante il summit di Pau, il rischio di una paralisi dello scenario militare sul lungo periodo è più che mai concreto. Questa in poco più di 90 secondi la descrizione dell'impegno militare francese, ma ci sono anche soldati di altre nazioni, tra cui l'Italia per esempio, nella zona. Alcuni ascoltatori: l'Europa dove sta? Serve un esercito europeo. Qualcun altro scrive: operazione militare giusta, ma se non si aggiusta l'economia e la struttura di quegli stati è destinata al nulla. E qua l'ascoltatore va a toccare il punto. Qualcun altro, in maniera polemica: come mai quasi tutte le ex colonie, in particolare quelle francesi, sono messe così male? Andrea da Bergamo, a cui fa eco un altro ascoltatore su Facebook che va più nel dettaglio: dove c'è la presenza di Parigi c'è il rischio di un paese in mano agli estremisti islamici. Il doppio giochismo francese in Africa è un ingrediente fondamentale per rendere questi stati africani delle pericolose polveriere. Infine chiudo, poi torno ai vostri messaggi: e la Francia come rientra del costo dell'operazione Barkhane? Beh, lì il rientro diciamo che è un investimento securitario, un investimento in sicurezza in una zona che è fatta di ex colonie dove gli interessi economici sono altissimi. Basti pensare al Niger, alle miniere di uranio Arlit e alla grande azienda francese Areva. È chiaramente ovvio che andare a proteggere i propri interessi nazionali sia un investimento. La sicurezza non è un costo, e qua parlo dal punto di vista dei francesi evidentemente, è un investimento che si fa per tutelare i propri interessi. È la domanda che porrò a Camillo Casola, anzi a lui chiederò nello specifico quanto è efficace il solo intervento militare. Non prima però di essere andati, Camillo, porta pazienza, andiamo sulle strade italiane e poi torneremo su quelle polverose lingue di sabbia. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, occhi puntati sul Sahel. Faticoso direte voi, avete ragione, sono tanti paesi in tutta quella fascia che congiunge il deserto del Sahara con l'Africa nera. Quest'oggi stiamo provando a ragionare se i tanti gruppi jihadisti abbiano terreno fertile per la costituzione di un califfato e quanto questo califfato possa essere pericoloso e costituire una minaccia anche per gli interessi europei. Nel frattempo vi segnalo che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in quella che va a suggellare i suoi 75 anni, ha parlato sì Donald Trump, che ha sostanzialmente tirato ad alzo zero contro la Cina, addossando ogni responsabilità. Sta adesso parlando Xi Jinping, peraltro con un'immagine particolarmente efficace che tra pochissimo vi racconto, sono tutti in diretta streaming. Il Covid-19 è un virus che ha devastato il mondo, ha detto il leader cinese, continua a tornare, il virus può essere sconfitto, ma ogni tentativo di politicizzare e creare divisioni deve essere respinto. Così un presidente cinese che parla da una delle ricche sale del palazzo del governo, fra l'altro campeggia dietro di lui, oltre alla bandiera della Cina, del Partito Comunista, la muraglia cinese. Forse l'immagine più icastica, più efficace dei leader fino adesso che stiamo osservando in queste ore. Lo ripeto, si sta svolgendo l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Torno però da Camillo Casola per capire con lui brevemente se l'impegno militare è sufficiente o se invece, oltre a inviare soldati, la Francia dovrebbe fare qualcos'altro. Io penso che la comunità internazionale dovrebbe fare qualcosa in più. Le operazioni militari, il coinvolgimento militare, sarebbe utopistico ritenere che non sia necessario, ma sicuramente non è sufficiente, non è la sola risposta. Servirebbe di certo un intervento più efficace anche in termini di assistenza al miglioramento dei sistemi di governance di questi stati, di efficace supporto nella riforma dei sistemi di sicurezza, degli apparati di sicurezza, di professionalizzazione degli eserciti, come dicevamo poco fa, sicuramente un approccio molto più centrato anche sulla sicurezza umana delle popolazioni civili, che spesso nella maggior parte dei casi, soprattutto in queste dinamiche di conflitto, sono quelle che pagano, diciamo, il prezzo più elevato, insomma, delle situazioni di instabilità. Quindi no, è ovvio ritenere che non sia sufficiente, ci dovrebbe auspicare che, insomma, un approccio diverso inizi a farsi largo, ecco, per avere risultati più efficaci. Certo, non soltanto i fucili devono parlare, eppure quelli, penso anche all'aviazione francese, tante soddisfazioni militari sul campo le ha date, hanno anche pagato uno scotto altissimo, ma un approccio globale è quello che invoca Camillo Casola, analista, ricercatore di ISPI, esperto di Sahel, che ringrazio e do appuntamento alla prossima. Camillo, buona giornata e buon lavoro. Grazie a te Gianpaolo, a presto. E mentre il presidente Xi Jinping, in collegamento video all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, cerca di rintuzzare colpo su colpo, benché i discorsi saranno stati ampiamente preparati, non illudiamoci, colpo su colpo diceva gli attacchi sferrati dall'amministrazione statunitense, in particolare dal presidente Donald Trump. E vi do anche conto delle vostre reazioni. Xi Jinping senza vergogna, scrive un ascoltatore, hanno nascosto tutto per mesi, hanno fatto sparire chi provava ad avvisare e adesso, puntini puntini. 349-238-6666 per i vostri commenti, i vostri messaggi. Io invece torno, cerco di fare un passo in avanti nell'analisi della ricchissima e drammatica situazione della zona del Sahel. Perché? Perché molti di voi stanno scrivendo che le risorse sono importantissime per i gruppi jihadisti, mettono e lasciano nella povertà intere popolazioni, però non tutte le risorse naturali sono uguali. Pensiamo per esempio all'ipotesi di attaccare una base francese, quella di Areva, dove sono stipate le riserve di uranio. Beh, non è assolutamente facile. Pensiamo per esempio al coltan in Congo, non è immediatamente utilizzabile. E quindi abbiamo chiesto a Genevieve Ezekiel, direttore del progetto Sahel di International Crisis Group, di spiegarci meglio a che risorse mirano i gruppi jihadisti nella zona. Beh, questo ovviamente dipende da che tipo di risorsa naturale parliamo. I gruppi jihadisti, come molti altri gruppi armati della regione, cercano sempre di avere accesso alle risorse. Le risorse aurifere, specie quando già estratte, sono ovviamente molto più facili da sfruttare. E i jihadisti cercano di conquistarle, proprio come le altre bande. Ma ci sono risorse che sono molto più complicate da commercializzare e altre che di fatto non hanno neanche un vero mercato. Penso all'uranio, una risorsa alla quale non possono avere accesso. Queste le parole di Genevieve Ezekiel, direttore del progetto Sahel di International Crisis Group. E poi ci sono i vostri messaggi che quest'oggi sembrano particolarmente efficaci nel cogliere alcuni punti non ancora esplorati del nostro viaggio. Un ascoltatore, che vi dico già come chiude il lungo messaggio, cinico, punto di domanda, no realista, scrive: per sfruttare al massimo le ricchezze minerarie di un paese bisogna tenere la popolazione nell'ignoranza e nella povertà. Poi ci metti un bel governo fantoccio manovrato dalle lobby, un esercito di mercenari ben pagati e il gioco è fatto. Ci guadagnano tutti tranne la popolazione locale. E poi aggiunge: e così si sfregano le mani anche le associazioni umanitarie, se no che senso hanno di esistere? Sicuramente, gentile ascoltatore, lei ha toccato molti dei punti che sono quelli più nevralgici. Sto pensando al Mali, e se avremo tempo vi farò sentire il commento di Ezekiel anche sul Mali è in corso una crisi politica fortissima, nonché militare. La giunta militare ha preso il potere, c'è un presidente ad interim, ma il Mali dal 2013, come dire, qualcuno direbbe di Mali in peggio, con un pessimo senso dell'umorismo. Sul fatto della presenza delle associazioni umanitarie, è qui forse cinismo, ma è vero che vi sono delle situazioni in Africa dove ci sono più ONG che abitanti, e questo senza voler fare di tutto un erbo un fascio. Nella sola Goma, capitale nel Nord Kivu, è stata ribattezzata capitale delle ONG anche per il proliferare di vari progetti, magari locali, magari che tentano di mettere le mani sui fondi europei in maniera non troppo trasparente. Riusciamo, Valeria Bernardi, ad andare in Mali? Sì, la terza risposta di Jezekiel. Allora, la domanda è questa: quanto è importante il paese, il gigantesco paese nello scacchiere del Sahel? La giunta militare che ha deposto il vecchio presidente ha nominato un ex ministro della difesa, Ban Dao, che è un colonnello di lungo corso, che era stato ostracizzato nel precedente governo. Insomma, la crisi politica è ben lungi dall'essere risolta. Ma qual è l'importanza del paese nel più generale scacchiere del Sahel? Sentite. Bon, alors, il est un peu tôt aujourd'hui pour savoir exactement ce qui va se passer, hein. On sort, peut-être. Oggi mi sembra ancora troppo presto per azzardare che cosa succederà. C'è un quadro di incertezza, non sappiamo ancora chi andrà veramente a dirigere il paese. La giunta ha annunciato questa nomina, ma bisogna ancora vedere se questa nomina sarà davvero accettata all'estero, perché la comunità economica degli stati dell'Africa dell'Ovest ha espressamente chiesto un presidente civile e non militare. Ora, Ban Dav tecnicamente è un civile, è un ex ministro della difesa ed è anche un ex generale. La giunta militare però resta tecnicamente al potere e bisognerà vedere sia se la comunità internazionale accetterà questo compromesso sul nome di Ban Dav e soprattutto se sarà accettato all'interno, perché esistono altre forze politiche in campo. Vedremo più avanti se questo nuovo potere è capace di consolidarsi, di gestire una coalizione e di avviare delle riforme che molta gente chiede in strada, oppure se il presidente provvisorio del Mali si dimostrerà incapace di mettere in piedi questa riforma, che poi è il vero cuore della crisi. I gruppi jihadisti non sono che l'espressione del male più profondo della debolezza dello Stato, dell'incapacità dello Stato di donare stabilità ai cittadini. Con questa interessante chiosa di Jean-Hervé Jezekiel, che sottolinea che non è tanto la presenza jihadista il fenomeno vero e proprio, ma è l'assenza dello Stato, delle sue fragilità, che permette il fiorire di queste tendenze estremiste. Io a questo punto lascio la parola a Valeria Bernardi. You're fired. Che mi caccia, perché il tempo è scaduto, non prima però di aver ringraziato tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, voi che siete stati all'ascolto. L'appuntamento è domani, ore 16, intanto un saluto da Giampaolo Musumeci. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.